Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Banca Italia, Renzi dice il governo era stato avvertito della mozione. Gentiloni, tuteleremo l'autonomia dell'istituto. Catalogna, Puigdemont rigetta la palla in campo spagnolo. Madrid attiverà sabato la revoca dell'autonomia catalana. Riprende l'occupazione, ma calano le assunzioni stabili, conferma l'INPS, boom dei contratti a chiamata. Vince la Juve, pareggio prezioso per la Roma, prove convincenti alla fin fine dell'italiana in Champions League. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, la nostra pagina Facebook e la pagina Facebook di Radio 24, dalle quali andiamo anche in diretta video, e se volete potete commentare anche là, leggeremo anche i commenti che pubblicate durante la nostra diretta. Dall'altra parte del vetro abbiamo Laura Faggini in assistenza in redazione, Paolo Corleoni in regia. Iniziamo dunque la giornata tornando sul tema di Banca d'Italia e su questo scontro politico che sembra farsi acceso anche tra il segretario del Partito Democratico e lo stesso esecutivo e lo stesso Presidente del Consiglio. Facciamo un punto con Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, Simone, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni sono proprio ai ferri corti su Banca Italia. Dopo la mozione PD, il segretario Dem rivela che il Premier sapeva tutto, il governo non era semplicemente informato, era d'accordo, dice Renzi. La mozione parlamentare non solo era nota, ma come sa chi conosce il diritto parlamentare, questa mozione prevedeva che il governo desse un parere, che c'è stato ed è stato positivo. Nessuna questione personale con Ignazio Visco, assicura Renzi. Ma il Parlamento ha diritto di discutere. Da Palazzo Chigi però arriva la gelata. Sul tema della Banca d'Italia le decisioni del Presidente del Consiglio saranno basate sulle prerogative a lui attribuite dalla legge ed ispirate al criterio di salvaguardia dell'autonomia dell'istituto. Attaccano i 5 Stelle, Renzi finge verginità, dice Luigi Di Maio, ma il disastro delle banche è anche colpa dei Dem. Lo strappo tra Renzi e Gentiloni però potrebbe anche significare la volontà di sganciarsi dal governo e iniziare la campagna elettorale vera e propria. Insomma, Renzi vorrebbe portare a casa la legge di bilancio e il Rosatellum e andare al voto. A te, Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito. Il tema bancario resta al centro della scena. Poco fa il Presidente del Consiglio Gentiloni, all'arrivo alla riunione del prevertice dei leader socialisti a Bruxelles, ha parlato proprio di questo, ma non della Banca d'Italia, del fatto che l'unione bancaria deve essere uno strumento per migliorare la capacità delle banche di offrire credito alle imprese, di sostenere la ripresa, fare in modo che non ci siano misure inappropriate o intempestive che rischiano di invece produrre difficoltà nei meccanismi del credito. Il riferimento è proprio ai regolamenti che riguardano l'unione bancaria, che riguardano i non performing loans, ossia le sofferenze. Al forum euroasiatico di Verona, che raccoglie 600 aziende provenienti da Italia, Russia, Cina, India e altri paesi, l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina, interpellato sul tema Banca d'Italia, risponde in realtà parlando proprio di questo. Sentiamolo al microfono di Laura Bettini. No, guardi, io non commento su autorità in Italia. Se vi può interessare, vi dico cosa penso invece, cosa abbiamo realmente bisogno in questo paese. Abbiamo bisogno di persone a Francoforte e a Bruxelles che, oltre che a difendere gli interessi dell'Europa, difendano anche gli interessi dell'Italia. Quindi dobbiamo mandare quelle professionalità che consentano di rafforzare il peso del nostro paese nelle istituzioni, dove vengono definite le regole in termini di sofferenze o titoli di Stato, perché questa è la priorità che ci troveremo ad affrontare come sistema paese nel corso del prossimo anno. Scaduto un ultimatum, ce n'è un altro. Oggi, per quanto riguarda la Catalogna doveva rispondere oggi se appunto avrebbe proclamato l'indipendenza oppure no. È arrivata una risposta di Puigdemont, che ha di nuovo rigettato la palla in campo spagnolo, e la Spagna ha dato tempo, Madrid ha dato tempo fino a sabato. Andiamo a Barcellona per un punto innanzitutto di cronaca con Mario Magarò. Mario, buongiorno. Ciao Simone, buongiorno. In primis, per quanto riguarda la riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri spagnolo, che appunto, come dicevi tu, si terrà sabato, fonti dell'esecutivo hanno confermato che la riunione è prevista per le 10 del mattino, quindi c'è una nuova, in sostanza, deadline, non un vero e proprio ultimatum concesso a Puigdemont, ma è evidente che adesso tutta l'attenzione è spostata a quanto sarà deciso e stabilito nel Consiglio dei Ministri, che, come ha già annunciato Mariano Rajoy stamattina, attiverà l'articolo 155 della Costituzione. Qui a Barcellona, complice una pioggia copiosa che sin dalle prime ore del mattino si sta abbattendo sul capoluogo catalano, la situazione è tranquilla, appunto non sono segnalati movimenti di piazza, si esclude una concentrazione per le 7 di oggi pomeriggio davanti alla sede del governo spagnolo qui a Barcellona, convocata dalla CUP, ovvero dal Partito di Convergenza Unità Popolare, che rappresenta l'ala estrema dell'indipendentismo catalano. Si è da poco conclusa invece la riunione del blocco indipendentista che detiene la maggioranza presso il Parlamento catalano, che questa mattina ha già iniziato a trattare ufficialmente l'argomento della possibile dichiarazione unilaterale di indipendenza della Catalogna sulla base dell'applicazione dell'articolo 155 della Costituzione da parte del governo spagnolo. Non è stato ancora confermato quando ci sarà la sessione plenaria del Parlamento, ma con molta probabilità sarà confermata dopo la riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri spagnolo prevista per sabato. Per il momento è tutto, a voi la linea. Ti ringrazio, grazie dunque a Mario Magarò per un'analisi. Abbiamo in diretta Luca Veronese del Sole 24 Ore. Luca, buongiorno. Nella sostanza, Madrid concede altri 2 giorni alla Catalogna, ci sembra di capire. Saranno 2 giorni di trattative, no? Sì, ci sono ancora 2 giorni per cercare di evitare il commissariamento da parte di Madrid della regione catalana. E questo non è proprio un ultimatum, perché è anche dovuto agli impegni europei di Rajoy, però sono i tempi tecnici che impongono questa scadenza di sabato. Restano dei margini di trattativa, perché Puigdemont oggi, rispondendo al governo spagnolo, ha detto che è pronto a dichiarare l'indipendenza della regione, ma che la stessa indipendenza non è ancora stata dichiarata, e questo potrebbe aprire anche per i giuristi costituzionalisti uno spiraglio. Certo che gli scenari ormai sono 3: o da qui a sabato si arriva a definire un dialogo in qualche modo, e quindi senza applicare l'opzione nucleare, l'hanno chiamata, dell'articolo 155 della Costituzione, che annulla l'autonomia catalana, oppure si arriva sabato e a questo punto si applica il 155. Da qui 2 possibilità: o un intervento duro di Madrid con repressione anche della polizia e tutto il resto, oppure una cosa molto più probabile, e è questo lo scenario, il terzo, probabilmente più facile da verificarsi nei prossimi giorni: ci sarà un'applicazione morbida di questo 155, e quindi un dialogo che continuerà pur con la presenza forte del governo di Mariano Rajoy nella gestione della Catalogna. Ti ringrazio, grazie a Luca Veronese del Sole 24 Ore per questa analisi. Noi parlavamo pochi istanti fa del Consiglio europeo, sicuramente nel Consiglio europeo si discuterà anche di immigrazione. Oggi intanto arriva un primo via libera alla modifica del regolamento di Dublino, che tanti problemi ha creato su questo fronte. Sentiamo. Potrebbe rappresentare una rivoluzione per l'Italia. La Commissione Libertà Civili del Parlamento Europeo ha dato il primo via libera alla modifica del regolamento di Dublino, firmata dalla relatrice svedese Cecilia Wilström. Il testo è passato con 43 sì e 16 no. La rivoluzione consiste nel fatto che la novità principale della misura è l'abolizione del principio secondo il quale il migrante è obbligato a chiedere asilo nel paese di primo ingresso, un principio che ha sempre svantaggiato l'Italia come la Grecia. Un'altra novità è l'introduzione di un sistema automatico e permanente di ricollocamenti in tutti i paesi dell'Unione. La posizione del Parlamento andrà tuttavia negoziata con il Consiglio, che ancora non ha una posizione comune. Un voto fondamentale per l'asilo europeo solidale, ha commentato in un tweet il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. Oggi chiedo agli Stati membri, continua, di fare presto la loro parte, ricordando infatti che la strada verso una modifica del regolamento di Dublino è ancora tutta in salita. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di immigrazione è prevedibile che si parli al G7 di Ischia, quello dei ministri degli interni. Sentiamo. attività di prevenzione per contrastare l'uso di internet da parte dei terroristi, lotta ai foreign fighter jihadisti di ritorno dai territori liberati dall'ISIS, scambio di informazioni e attività di depotenziamento degli estremisti. Il G7, che si aprirà nel pomeriggio con l'arrivo dei ministri e delle delegazioni a Castello Aragonese, avrà soprattutto questi temi al centro dei lavori. Sul primo punto in particolare il ministro dell'Interno Minniti è riuscito a coinvolgere i big della rete, da Microsoft a Google, da Facebook a Twitter, quello di una collaborazione senza precedenti per bloccare la minaccia jihadista che sfrutta internet per raccogliere proseliti e fare propaganda. Sono i grandi player della rete infatti i detentori di quei dati sensibili con i quali gli stati ormai da anni e senza successo tentano di trovare un'intesa per poter ricostruire i movimenti di denaro delle organizzazioni terroristiche, ma anche per prevenire e fermare attentati. Da segnalare la protesta pacifica contro il G7, le politiche migratorie del governo per le vie di Napoli di circa 200 antagonisti che in accordo con le forze dell'ordine raggiungeranno poi Ischia. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Ischia. I dati dell'INPS di oggi confermano una tendenza che si era già registrata nei mesi scorsi, ossia il fatto che sì, aumenta l'occupazione, ma calano i contratti stabili. Da gennaio ad agosto scendono le assunzioni a tempo indeterminato, colpa del part-time, mentre salgono i contratti a termine e in apprendistato. E dopo la cancellazione dei voucher è boom per i contratti a chiamata, più 129,5%. E quanto rivela l'osservatorio INPS, che indica in 4,6 milioni i nuovi rapporti di lavoro, la maggior parte a termine, a fronte di 3,6 milioni di cessazioni. Saldo positivo quindi è superiore a quello dello stesso periodo dello scorso anno. Negli 8 mesi crescono anche le domande di disoccupazione, pari a oltre 1 milione. Scendono invece al livello minimo dal 2008, anno di inizio della crisi economica, le ore autorizzate di cassa integrazione, che nei 9 mesi hanno mostrato un calo di oltre il 42%. Quelle ordinarie sono diminuite di quasi il 21%, quelle straordinarie del 54%. Diversa invece la tendenza mensile, che mostra un aumento delle ore di cassa da agosto a settembre. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso parliamo di un lutto nel mondo del cinema. È una notizia che è arrivata pochi minuti fa, è la morte di un regista che alla fin fine tutti conosciamo, è il regista che ha diretto Thomas Millian nei suoi film, si tratta di Umberto Lenzi. Aveva iniziato nei primi anni 60 con film di cappa e spada e riletture dei classici salgariani come Sandokan, la tigre di Monpracem, interpretato da Steve Reeves, e I pirati della Malesia, in cui durante le riprese viene sorpreso dallo scoppio della guerra civile. Sono gli anni di mode cinematografiche che lui sa sfruttare con ingegno. Sull'onda di James Bond, in 2 anni gira ben 4 film di spionaggio. Poi il genere bellico, da una sceneggiatura del giovane Dario Argento, La legione dei dannati. Negli Stati Uniti il grande attacco interpretato da attori come Henry Fonda, Helmut Berger e John Huston. Quindi si specializza nel giallo all'italiana, inventando un sottogenere, quello del giallo erotico italiano, ma anche quello del cannibalico e soprattutto i poliziotteschi. Da Milano odia La polizia non può sparare con Thomas Millian, a Roma Mano armata con la coppia Millian e Maurizio Merli, e poi Napoli Violenta, quest'ultimo capace di un incasso record di 60 milioni di lire solo nel primo weekend di programmazione. C'è una cosa però che vorrei mettere subito in chiaro, dottor. Dica. Che con me non si faccia mai girallico. Lico? Di coglioni. Insieme a Millian, inoltre, il regista inventa anche il personaggio di Ermonnezza. Arriveranno poi gli horror negli anni Ottanta e un'ultima parte della carriera da giallista, con libri di un certo successo e una rubrica cinematografica con la più importante rivista di film di genere, Nocturno. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A chiudere questa prima parte della trasmissione andiamo a parlare di sport e di calcio con le italiane in Champions League. Si chiude questo giro e tutto sommato, Dario Ricci, direi che si chiude bene. Direi di sì, e direi che in omaggio a Monnezza partirei proprio dalla splendida Roma, no? Che torna da Stamford Bridge solo con un pari, ma già il fatto che ci sia questo rammarico vuol dire che veramente gli uomini di Francesco, ed è da sottolineare perché il lavoro che sta facendo questo nuovo mister non è assolutamente facile, ma sta già dando dei risultati, tornano con questo 3-3 che lascia pure appunto un po' di rimpianti, perché si è vista una Roma a tratti anche dominante rispetto al Chelsea di Antonio Conte, che non avrà una rosa immensa ma sicuramente qualitativamente importante. E poi si è visto sto gol di Dzeko che ci ha ricordato Van Basten, solo per questo lo ringraziamo, perché è sembrato di rivedere per un attimo Van Basten con questo splendido sinistro. Discorso contrario per la Juventus farei, Simone, perché la Juventus porta a casa il risultato, il 2-1 con lo Sporting Lisbona, ma con una prestazione volitiva, volenterosa, prodotto tanto, si vedeva che la Juventus voleva fare, ma non mi è sembrata, almeno vedendola ieri dallo stadio, non molto efficace. La miglior Juventus. Sì. Stasera poi ci tocca invece l'Europa League, altro banco di prova, soprattutto per il Milan, che non se la passa benissimo di questi tempi, che ospita qui a San Siro la EK Atene, sempre scorbutici. I greci, l'Atalanta, che in campionato va a fasi alterne, in Europa invece sta andando molto bene, ha l'impegno più semplice del suo girone, comunque complesso, con Everton e Lione. Stavolta incontra l'Apollon Nicosia, che è appunto l'avversaria sulla carta un po' più morbida. E poi c'è questo suggestivo incrocio tra il Nizza di Mario Balotelli, che torna in odor di nazionale perché ha iniziato benissimo anche questa stagione in Costa Azzurra, e la nazionale sicuramente degente, diciamo così, sì, di questo periodo potrebbe aver bisogno anche del fu Super Mario, contro la Lazio, che è una delle forze preponderanti nel nostro campionato. Quindi alle 19 quella là cerco di vedermela. Ok, grazie Dario Ricci. Di sport ovviamente torneremo a parlare a partire dalle 14, tutti convocati. Noi adesso ci fermiamo, andiamo e poi iniziamo il nostro Giro d'Italia. Giro d'Italia, la vicenda l'avrete sentita stamattina, tra l'altro Alessandro Milan, Veronica Gentili e Leonardo Manera hanno avuto ospite ai Funamboli l'avvocato del padre, la vicenda di questa bocciatura di un ragazzo che è stata annullata perché il padre, separato dalla madre, non era stato informato. Dunque è stato fatto ricorso e la bocciatura è stata annullata. Stamattina avete sentito la voce di una parte, quella dell'avvocato. Adesso andremo a sentire i presidi, perché insomma non è nemmeno che si può tenere sotto controllo tutto, e anche loro hanno le loro ragioni. Ci occuperemo di un nuovo vescovo con un attico, si tratta dell'ex vescovo di Trapani, sul quale si sta indagando per malversazioni, tra cui appunto l'acquisto di un attico da 200 metri quadri. Piacciono queste cose. Il Papa oggi ha detto che bisogna stare attenti perché non bisogna essere schiavi del denaro. Ecco qua la dimostrazione. E poi molti altri argomenti, a partire dal tema delle occupazioni abusive nei palazzi della capitale. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp e la nostra diretta video sulla pagina Facebook di Radio 24. Andate, guardate, commentate, e anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno potete, tra l'altro, ve l'ho ricordato ieri, ve lo ricordo ancora oggi e continuerò a ricordarvelo, potete attivare le notifiche, per cui nel momento nel quale Radio 24 è in diretta o Effetto Giorno è in diretta potete avere la notifica, una piccola segnalazione che vi dice, se ve la volete seguire naturalmente in questa modalità. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della Banca d'Italia, di Renzi che dice che il governo era stato avvertito della mozione, e di Gentiloni che dall'altra parte replica: tuteleremo l'autonomia dell'istituto. Della Catalogna, dove Puigdemont ha rigettato la palla in campo spagnolo, dei dati sull'occupazione, di calcio e della scomparsa di un regista che è Umberto Lenzi. Adesso iniziamo il nostro Giro d'Italia. La vicenda l'avrete probabilmente letta e non so a quanti di voi ha dato un po' di fastidio, ed è la vicenda di un ragazzo la cui bocciatura è stata revocata dal TAR, dal Tribunale Amministrativo. La vicenda arriva dal Friuli Venezia Giulia, in realtà è una vicenda che si muove attraverso una serie di province, perché il ragazzo è andato a scuola prima a Gorizia, poi a Trieste e quindi di nuovo a Gorizia, con risultati scolastici altalenanti e i genitori che erano separati. Che cosa succede? Che il padre non viene informato, così dice, tempestivamente della progressiva mancanza di impegno e di applicazione del ragazzo, fa un ricorso e ottiene che il ragazzo che sia revocata la bocciatura. Questo naturalmente pone un problema per un po' tutte le persone che si occupano di organizzazione della scuola, a partire dai dirigenti scolastici, perché gli obblighi informativi iniziano a diventare forse un po' troppi. Mario Rusconi torna da noi, insegna processi organizzativi della scuola all'Università Roma 3 ed è anche vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Bentornato. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, che cosa dice di questa sentenza? Ma guardi, la sentenza, abbiamo visto, è ancora molto generica. Allora, la questione principale è se il genitore separato era stato informato o meno. Voglio fare presente che da circa tre anni, tutte le scuole hanno il registro elettronico, vale a dire, io genitore ho una password, se non mi è stata tolta la patria potestà, tramite la password che devo richiedere alla scuola. Naturalmente io posso vedere i voti di mio figlio, posso vedere quando è stato interrogato, se è assente, si è preso delle note. Rusconi, eccetera. Hanno o dovrebbero avere, lo dico per esperienza personale naturalmente. No, hanno se si sono, voglio dire, fare il genitore vuol dire avere anche un po' di senso di responsabilità. Allora non è che la scuola ti manda la password a casa, sarai tu come genitore che chiederai la password alla scuola, e tutte le scuole, diciamo, in genere si comportano in questo modo. In più, siccome so che si lamentava anche il genitore di non essere stato informato delle riunioni e così via, tenga conto che anche qua da 2 anni tutte le scuole italiane, anche le scuole paritarie, quelle volgarmente dette private, devono avere un sito istituzionale in cui ci sono scritte veramente tutte le cose che fa la scuola, dalla festicciola ma anche dalle riunioni, dei consigli di classe, collegi docenti. Allora questo chiaramente, se questo genitore è rimasto all'oscuro di tutto, mi sembra un po' strano, insomma, però evidentemente quello che dice Rusconi, quello che dice lei è: è anche lui che non si è informato, come ci scrive qualche ascoltatore via WhatsApp, no? Ma è evidente, essere genitore, ripeto, significa avere anche un po' di senso di responsabilità. Se poi attraverso una serie di cavilli io riesco a far annullare la bocciatura di mio figlio, sto facendo non il bene di mio figlio. Questa è la prima considerazione che faccio, perché essere promossi dal TAR lascia abbastanza perplessi sul futuro poi educativo di questo bambino quando diventerà poi ragazzo. L'altra cosa che voglio dire è che noi ci aspetteremo, e questa non vuole essere una critica ma una constatazione un po' amara, una maggiore accortezza da parte delle magistrature amministrative. Guardi che anni fa c'è stata la promozione di un ragazzino di quarto ginnasio perché era stato rimandato in educazione fisica e in matematica, va a settembre agli esami di riparazione, viene bocciato, il TAR lo salva dicendo che educazione fisica a fin dei conti sono 4 zompi, poi matematica in un liceo classico conta poco. Ecco, io trovo che queste sentenze siano veramente fuori. 4 zompi è stupendo. Questa naturalmente lo sto dicendo io. È chiaro, sta riassumendo. Molto critica. Allora, anche là la magistratura dovrebbe cercare di entrare Qua dice il TAR: la scuola era ben consapevole delle difficoltà che il ragazzo incontrava in dipendenza della difficile separazione della coppia sfociata in una situazione fortemente conflittuale tra i coniugi, ma dico, anche i genitori saranno stati ben consapevoli, o avrebbero dovuto esserlo, no, delle difficoltà del ragazzo. Tra l'altro i professori hanno l'obbligo di un'ora a settimana dedicata alle famiglie. Anche qua il genitore si deve un po' informare, cioè se io devo prendere un treno, non è che le ferrovie dello Stato vengono da me e dice quale treno vuoi, vado io e mi informo sul treno che devo prendere. Insomma, mi sembra che troppo spesso il genitore, con un eccesso di perdonismo, pensa che attraverso una sentenza della magistratura portata magari avanti da un legale, insomma, con gli attributi, possa, diciamo così, sanare una situazione che è una situazione invece di difficoltà proprio formativa. Insomma, non si fa il bene dei ragazzi semplicemente con un atteggiamento perdonistico, si fa il bene con un atteggiamento non crudele ma di responsabilità e di responsabilizzazione. La ringrazio, grazie a Mario Rusconi, che insegna processi organizzativi della scuola dell'autonomia all'Università Roma 3 ed è vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi, e grazie anche per le parole di buonsenso. Buona giornata. Noi adesso ci spostiamo col nostro Giro d'Italia, ci spostiamo a Trapani. Beh, la storia anche questa, qualcosa avrete letto in giro, perché poi queste cose girano molto rapidamente. La vicenda dell'arcivescovo Miccichè, del quale sarebbe stato trovato un attico e accusato di una serie di malversazioni, di utilizzo del denaro della curia che non doveva utilizzare in quel modo. Oggi le parole del Papa. Occorre, dice, rimanere liberi dal fascino del denaro, dalla schiavitù nella quale il denaro rinchiude quanti gli rendono un culto. Giacomo Di Girolamo è direttore della testata TP24, che è una testata di Trapani. Giacomo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Come nasce la vicenda? La vicenda è veramente contorta, come tutte le vicende trapanesi, tra l'altro. E nasce nel 2009 addirittura, perché il vescovo di Trapani, una denuncia non anonima, arriva in procura di Trapani e dice: guardate che si sono fuse due fondazioni della diocesi ed è sparito 1 milione di euro. E ne nasce un caso che coinvolge tutta la comunità, e il vescovo di Trapani dice in una conferenza stampa e dice: no, è tutto a posto, invece io ho scoperto che è il mio economo ad aver rubato dei soldi. L'economo in particolare era l'arciprete di Arcamo, Don Mimmi Treppiedi. Parte un'inchiesta internazionale, corrogatore chiesto al Vaticano, ispezione anche della Banca d'Italia, perché effettivamente è successo qualcosa, sono spariti i soldi, sono stati venduti, è stato venduto un convento senza che nessuno lo sapesse. Una venduto? No, scusami, sì. Come è stato venduto un convento senza che ne sapesse... Qualcosa, sì, insomma, con queste, là, insomma, diventa quasi un romanzo di Dan Brown, no? Con le sore che di notte vengono a firmare, no? Sono costrette a firmare l'anziana madre superiore questo atto di vendita. E, insomma, l'inchiesta va avanti e va talmente avanti che a un certo punto si scopre che è tutto l'opposto di come è stato raccontato, ovvero in realtà quello che si è arricchito a spese della cura dovrebbe essere, in base agli ultimi sviluppi, sì, appunto Miccichè, che invece accusava il suo economo, e qui parte l'indagine su Miccichè e si scopre a poco quello che stiamo raccontando in questi giorni, ovvero prima i dipinti, le opere d'arte, i crocifissi, i gioielli per quasi 2 milioni di euro trovati nella villa del vescovo che abita a Monreale, sì, vicino a Palermo, e ora questo attico a Palermo comprati con i soldi della fondazione Auxilium Campanile, che nasce dalla fusione delle due fondazioni storiche della provincia e della cura di Trapani, che dovrebbero, sì, no, scusami, e malati. No, scusami Giacomo, probabilmente è stato una sorta di lapsus, sì, perché l'attico è a Roma in realtà, non a Palermo. Sì, sì, l'attico a Roma, scusate. Sì, sì, sì, no. La villa a Palermo è la villa del vescovo, dell'ex vescovo, dove sono stati trovati invece i quadri, gli oggetti d'arte, i crocifissi, i gioielli. Per chi conosce Roma, siamo alle spalle di Piazza Barberini, quindi praticamente in centro, insomma, ecco, quindi una sì. Sì, una passione per, sì, gli, sì, attici, che evidentemente... In via San Nicola di Tolentino. Il vescovo Miccichè fu costretto alle dimissioni da Papa Ratzinger dopo una visita apostolica del suo vicino di diocesi, del vescovo di Mazara Mogavero. È una cosa rarissima che un papa invii un vescovo a indagare, no, su, sì, un altro vescovo. È successo, dobbiamo dire che neanche il vescovo di Mazara se la passa, sì, bene, perché c'è anche un'indagine in corso su un manco di soldi nella diocesi di Mazara, sì, per la costruzione, sì, di una chiesa. Allora, Giacomo, sono stati utilizzati i fondi, la chiesa non c'è, ecco. Giacomo, sappiamo che hai altro lavoro da fare, quindi ti ringraziamo, sì, ti ringraziamo per questo aggiornamento. Giacomo Di Girolamo, direttore della testata TP24. Qualche ascoltatore dice: siete ignoranti e ipocriti, perché durante il Rinascimento i tesori d'arte per i quali l'Italia c'era nella storia non li ha prodotti l'ambizione della chiesa. Ma qua non stiamo parlando di tesori dell'arte e della storia, non è che l'arcivescovo Miccichè ha ingaggiato il Bernini di quest'epoca per fare una statua, si è comprato un attico dietro Piazza Barberini, si sarebbe comprato, poi lo appurerà naturalmente. Non stiamo parlando di persone che stiano creando un bene per la comunità, stiamo parlando di eventuali reati di malversazione che dovranno ovviamente essere provati dalla magistratura inquirente. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo, torneremo sul tema delle occupazioni abusive di immobili a Roma e parleremo di un murales che potrebbe sorgere in provincia di Potenza. Che cos'ha questo murales che si chiama Muro della Speranza e dedicato all'accoglienza dei migranti? E che cos'ha di particolare? Che un pezzo del murales rappresenterebbe un'immagine del presidente della regione. Traffico, cioè, o meglio, borsa, e poi ci ritroviamo subito. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli su Banca Italia: Renzi dice il governo era stato avvertito della mozione, Gentiloni replica tuteleremo l'autonomia dell'istituto. Catalogna, Puigdemont rigetta la palla in campo spagnolo, Madrid attiverà sabato la revoca dell'autonomia catalana. Nella bozza della manovra niente bollo del 2 per 1000 sulle polizze vita come si era ipotizzato inizialmente. La notizia è stata appena battuta dalle agenzie. E sempre appena battuta dalle agenzie la notizia di Ryanair. Il presidente dell'ENAC Vito Riggio dice che al momento non ci sono gli estremi per applicare sanzioni per i voli cancellati. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. E come era prevedibile, sta aprendo un po' di dibattito tutta questa vicenda del ragazzo promosso grazie ad una sentenza del TAR. Ci ricorda un ascoltatore, è beato lui a Forlì, dice, dove i miei figli frequentano il liceo scientifico posso controllare voti e andamento scolastico grazie a un'app sul cellulare, addirittura un'app sul cellulare per il liceo di Forlì, veramente niente male. Chi invece dall'altra parte dice, ora anche i presidi contro la magistratura, dice, attaccandosi a banalità fanno finta di non conoscere cosa dice la legge sulle bocciature. Tema di dibattito non lo è invece, vedo che qualche ascoltatore sulla nostra pagina Facebook, dove stiamo continuando ad andare in diretta video, ci chiede notizie ancora una volta di Igor il Russo. Ne abbiamo parlato proprio ieri, abbiamo raccontato di questa vicenda incredibile, del fatto che è passato per 3 volte davanti a una pattuglia dei carabinieri, ha parcheggiato il Fiorino, è sceso, è entrato in un boschetto, è uscito dal boschetto, è andato nel Fiorino perché si era dimenticato un sacco, è rientrato nel boschetto e dopodiché da quel momento è sparito. E i carabinieri non sono intervenuti perché dalla centrale gli hanno detto aspettate rinforzi. Dopodiché Igor il Russo ce lo siamo dimenticato. Veniamo alla questione della siccità. Abbiamo parlato nei giorni scorsi del Piemonte, dove la situazione è ancora difficile. Ci sono una 50ina di comuni che vengono serviti dalle autobotti. Oggi i tecnici dell'ARPA sono in giro per il Piemonte proprio a verificare la situazione, i tecnici, scusate, più che dell'ARPA, di quelli che si occupano del bacino del Po, proprio per verificare la situazione e vedere quali sono le situazioni più critiche. C'è ovviamente correlato a questo anche un problema di smog che investe gran parte delle regioni del nord, soprattutto quelle della pianura padana, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e naturalmente Piemonte. E però problemi di siccità si verificano anche in altri luoghi in queste ore, a partire dalla Toscana. Federica Fratoni è l'assessore all'ambiente, energia e protezione civile della regione. Buongiorno Fratoni, benvenuta. Buongiorno, grazie a voi. Anche da voi ci sono dei comuni che in questo momento vengono serviti dalle autobotti? Sì, diciamo che la situazione di siccità ancora perdura perché ha piovuto poco e male, se pensiamo agli eventi di Livorno del 9-10 settembre, tant'è che ci troveremo, stiamo predisponendo l'atto per la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre, che ovviamente verrà revocato qualora l'evoluzione del clima ci facesse intravedere qualche possibilità di rientro. Ad oggi non è così, sono previste precipitazioni per domenica, però diciamo che la situazione ormai veramente da tanto tempo che prosegue con questo stato di cose. Sono stati messi in campo 39 interventi per un totale di 4 milioni, quindi sono stati fatti nuovi pozzi, però è chiaro che alcune zone della Toscana ancora necessitano di essere approvvigionate appunto con autobotti. Domenica tra l'altro previste precipitazioni scarse, no? Esatto, sì, ma infatti questo non ci ha minimamente condizionato rispetto all'atto che stiamo predisponendo proprio per prolungare lo stato di emergenza. La ringrazio per questo aggiornamento, grazie a Federica Fratoni, assessore all'ambiente, energia e protezione civile della Toscana. Noi passiamo ad altro argomento, un argomento sul quale abbiamo intenzione di concentrarci, lo dico subito agli ascoltatori federissimi dei 5 Stelle, non perché al Campidoglio ci sia Virginia Raggi, ma come al solito quando parliamo di Roma ne parliamo perché è la capitale di questo paese, è la città più grande di questo paese e a volte ci sono delle situazioni inaccettabili che non necessariamente dipendono dall'amministrazione comunale, ma dall'incrocio di tanti fattori. Tra queste situazioni inaccettabili ci sono le occupazioni abusive di case, ci sono edifici come per esempio quello in via Collatina che è nella stessa situazione, anche se non è così vicino al centro, di via Curtatone, quello nel quale c'è stato lo sgombero in piazza Indipendenza alla fine di agosto, lo ricorderete, con tutti i migranti che scappano via, gli scontri con la polizia e via dicendo. In via Collatina ci sono 700 persone in un edificio abusivo e c'è soprattutto un problema da risolvere anche per i proprietari di casa. Mario Breglia, che è stato spesso tra l'altro ospite di Radio 24 in altre vesti, è presidente del SIDIEF, è la società che gestisce gli immobili di Banca d'Italia. Breglia, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. L'abbiamo chiamata perché tra gli immobili occupati ce ne sono anche di vostri e mi sembra di aver capito che è stata prospettata una cosa curiosa. È stata prospettata l'idea: se il comune non riesce a trovare un edificio da mettere a disposizione per le persone che vengono sgomberate, ebbene è il proprietario che deve provvedere ad alloggiare queste persone, è così? Dunque, intanto dei numeri a completamento delle informazioni che dava prima. A Roma ci sono quasi 100 palazzi occupati con un numero di occupanti stimato tra gli 8 e i 10.000. Importante. Il palazzo che era prima di Banca d'Italia e oggi è passato a Sidiaf, che è la società di Banca d'Italia che si occupa degli immobili al 100% di banca, è occupato dal 2004. È un palazzo, si trova in via Carlo Felice, diciamo vicino a San Giovanni, in una zona gradevole della città. Sì. È un palazzo pericolante. Sì. Questo. Quando è occupato liberato, da quante persone? Allora, la relazione dei vigili del fuoco che sono state lì un anno fa parla di 25 nuclei familiari per 80 persone. Teniamo presente che il palazzo ha circa 50 appartamenti, il che significa che la metà del palazzo non è usato perché è pericolante, c'è una scala pericolante, all'esterno cascano dei pezzi e appunto sia la relazione dell'ufficio tecnico del Comune di Roma che quello dei vigili del fuoco certificano la pericolosità. Sì. Di questo palazzo. Sì. Quindi da sgomberare anche, cioè, oltre che per questioni di legalità, un termine poco usato, ma esatto, di legalità, anche per questioni di sicurezza degli stessi occupanti, degli occupanti e anche delle persone che ci stanno intorno. Sì. Perché poi a Roma abbiamo avuto terremoti, quindi la situazione si è aggravata. Diciamo, la risposta del comune non c'è, perché noi chiediamo da mesi di poter parlare con l'assessore alla casa, l'assessore al patrimonio, per dare una mano al comune a trovare una soluzione. Noi non vogliamo che queste persone vengano messe come quelle di via Cortatone in mezzo alla strada immediatamente. È giusto che abbiano una casa popolare, che abbiano accesso a un alloggio, perché ovviamente molte sono anche famiglie che sono lì Breglia, da tanti anni. Breglia, le dico questo. Prego. Mi scusi se la interrompo. Allora, dato che siamo andati un po' lunghi oggi, io la rimanderei a domani, perché è un tema sul quale noi abbiamo intenzione di tornare e abbiamo intenzione di occuparci. Poi sentiremo, lo dico anche agli ascoltatori, in maniera che lo sappiano, sentiremo anche l'assessore, perché è giusto sentire anche l'assessore su questo tema, e l'amministrazione comunale per capire che cosa ne pensa. Però io la rimanderei a domani, così concludiamo il discorso, ci racconta un po' meglio qual è questa situazione e questa richiesta che avete, che avete ricevuto. Dice, insomma, se non ci sono spazi per far andare queste persone, dovete provvedere voi, insomma, li muovi da un palazzo occupato per metterli in un palazzo che paghi tu. Traffico Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.